24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Sabato, prima fine settimana, le dico, è lì. Che cosa vorrei fare? Pre-elezioni. Finalmente ritornare in quell'oasi di pace dove sono adorato dalle mie vecchiette e magari farmi dare una camera e restare lì a lungo. L'oasi di pace è quella, ormai Berlusconi la chiama così, l'oasi di pace con le sue vecchiette, dove vorrebbe una stanza per restare a lungo e dove va a fare i servizi sociali, no? Lì a Cesano Maderno, Cesano Boscone, Boscone. Elisabetta Fusconi, che ha tutti i parenti di Cesano Boscone, mi guarda. Boscone! Lomba. Saluto Elisabetta Fusconi, oggi sbrandata alle 6 e qui. Alle 6, così come saluto Peter Bescapè, regia, che è Elisabetta Fusconi è svizzera, c'è il passaporto svizzero con i parenti di Cesano Bosconi. È una roba tutta così, un mix, non lo so, malvagio quasi. No, grande saluto a tutti quelli che ci ascoltano dalla Svizzera, sono tantissimi, a Lugano, sono appena usciti dai postriboli, sono appena usciti dai casinò, vi abbraccio ovviamente e così saluto anche tutti quelli che sono di Cesano Boscone. No, siamo alle minacce. Mi ha scritto sempre Elisabetta Boscone: non dire mai più che ho parenti a Cesano Boscone. Ma che ti fanno? Vabbè, perché non è vero. E allora ripristiniamo la verità. Oggi, cari italiani, la maggior parte dei giornali è in sciopero. Lo sciopero dei poligrafici. Saluto subito Vincino. Buongiorno Vincino. Lui, hai un passato da poligrafico. Tu appoggi. Non ci sono articoli di Michele Ainis oggi sul Corriere. No. Non c'è il Corriere. Non c'è il Corriere. Non c'è Repubblica. Ah, che bello. Non c'è. No, non c'è la Stampa. Beh, insomma, come dire, indifferente. C'è solo Il Foglio con le vignette di Vincino. Libero e Il Giornale, vabbè, si sa loro. Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano, Il Secolo XIX e Italia Oggi e Il Giorno. Ti sta bene? Abbiamo le idee chiare. Però ci sono delle interviste. Intanto fatemi salutare anche Silvia Brasca del TG della 7. Silvietta, ciao. Buongiorno a tutti. Ci sono delle interviste. Apriamo il Parlamento, va, che ci sono delle interviste. Sapete qual è? Se mi avete spiato su Twitter lo sapete già. Farabutti. Ma l'intervista del giorno ce n'è una. Vincino, sai chi ha intervistato Il Fatto? Renzi, no? No, ma quello era ieri. Licio Gelli, il venerabile, 96 anni. 103, no, 96. 96. E ne ha per tutti. Renzi è un bambinone, dura poco. Questo lo dice. Poi dice Alfano e Schifani, persone non certo di livello. Verdini è un massone. Sì. Ma soprattutto dice a un certo punto: non nascondo con una certa soddisfazione che vedo il popolo soffrire. Licio Gelli, no? Ma non è una felicità la mia, è che ho capito che così l'unica svolta ci può essere con un bel tributo di sangue. Allora, Presidente, è stato un coming out per Grillo. Chiaro. No, eccolo lì Vincino, è subito. Là. Scusami, è il secondo che chiede il sangue. Vincino, che sa subito leggere dietro le dichiarazioni di Licio Gelli. Tutta la... È chiarissimo. È chiarissimo, ecco. Chi è che chiede il sangue là? No, oggi. Ah, cioè, è l'ultimo giorno di campagna che elettorale. Ci vuole apprezzare a tutti, a te, a me, a tutti. No, gli altri. Ma nessuno, dai. Ma tu sei tra i giorni, non sei perché sei poco importante, ma tra i giornalisti del certo, giorno. Questo se sa. Facessero i radiofonici privati, saresti tra i primi. È chiaro, è chiaro. Infatti, non so. Ma lo sanno tutti che sei un antigrillino terribile, proprio. Ma io, ma privato, io. Privato terrificanti. Ma io, c'è la par condicio, Silvia Brasca, di subito qualcosa in favore di Beppe Grillo. Avanti. C'è la par condicio, dai, devi subito bilanciare, devi bilanciare. Non ci penso neanche. No. Adesso devo dire qualcosa io poi a favore, ma il conduttore non può dire nulla. Assolutamente. Silvia, tu dai, di qualcosa a favore di Beppe Grillo, dobbiamo, se no ci arriva l'antitrust. Di che ma è bello. No, ti sei messo nei guai da solo. È un bell'uomo. Di che è un bell'uomo. No. È orribile. È anche abbastanza mal vestito. No. Vabbè. No, con i jeans e la camicia fuori. No. Quei capelli cotonati. È una cosa, guarda, da vespera è una cosa imbarazzante. Quell'enorme veleggio là di derivati che volavano sopra la sua testa, no? lui c'ha i derivati sulla testa, è tutto uno, hai presente quel professore della Bocconi là, il Madoff della Bocconi, che poi andò a chiapparti i grillini no, lui è amico del Madoff della Bocconi e quindi Vincino lavora per immagini, lui ricorda le persone poi le disegna, così allora gli è venuto in mente il Madoff della Bocconi. Comunque, Silvia Brasca, tu condividi comunque ciò 5 senatori grillini andarono a parlare al Madoff della Bocconi e si fecero fotografare insieme. Condividi, cara Silvia, l'analisi di Licio Gelli oggi sul Il Venerabile, sul fatto che... Guarda, ho anche vabbè che ci sono pochi giornali, c'è anche Il Piccolo di Trieste, ti avverto. Ah, Il Piccolo di Trieste, non mi è arrivato. È un giornale molto ben fatto, anche quello come Il Secolo. Mi domando perché si debba andare a intervistare ancora Licio Gelli. Non lo so. Davvero, cioè, non bisognerebbe davvero dimenticarsi. No, pescano nel torbido, là, il loro lavoro è questo. Nel torbido, addirittura. Appunto, vai lì, lo sai già quello che dice. Sono quei personaggi che andrebbero dimenticati fino a quando... Ma loro ci fanno proprio la campagna elettorale su Licio Gelli. Il nipotino di Gelli, là, è cosa, e via. Chi? No, Ah, dice anche, quelli davvero bravi erano Andreotti e Cossiga. Dunque, Andreotti e Cossiga promossi. È il bacio della morte. Andreotti, io sarei felice se volesse comprarsi la statua. A proposito, ecco, appunto, attenzione, non abbiamo più parlato del busto in marmo a casa di Andreotti, a casa Vincino. Ha detto qualcosa per queste elezioni? Vedi, lui desidera solo essere riconvertito in derivati per poi poterci fare un grande giornale di satira, che era la sua passione. Proprio, i giornali di satira. Quindi allora Vincino, sappiate, mette sempre in vendita un busto in marmo vero, marmo di Carrara, di Giulio Andreotti sul terrazzo. Gli è rimasto sul groppone da 30 anni. Dal fallimento del male. Non riesce a piazzarlo, ma è un busto vero. Condannato, È un busto vero. Dopo, siccome abbiamo la foto, la pubblicheremo, la ripubblicherò su Twitter. E lo vende a Licio Gelli, lo dai a 50.000 euro? Scopo giornale di satira, sì 50.000. Fondazione di giornale di satira, esattamente. Dai, Silvia... O Similia, o soci, o cosi, colleghi suoi, insomma, là, comprate. Anche gli ultimi senatori andreottiani, chiunque si voglia fare avanti, comprate. Cinema, registi che hanno fatto tanti film. Mi sembri Renzi che vende le auto blu su eBay. Però adesso, esattamente. Adesso, cioè, calmati un attimo. Perché... Allora, Silvia Brasca, dai, compratelo voi al TG della 7, dillo a Mentana, guarda che è un reperto fantastico. Sì, andiamo da Cairo a dire di comprare qualcosa. Sì, esatto. E i cordoni della borsa un po' stretti, diciamo. Ho capito, dai. Che Cairo, un altro treno da tempo, da sempre stato lui. Perfetto. Ci avevo pensato, Cairo, è giusto. Se le mai, dopo io la mando. Dopo, meglio. mail a Cairo con un'offerta che non può rifiutare. Quanto chiediamo a Cairo per il boost? 49.999. Ottimo. E se lo porta, se lo può, e lo fotte Alicia Gelli così proprio all'asta, all'asta. Allora, però sentiamo adesso, al di là di tutto, abbiamo un po' scherzato, questa campagna elettorale, che ne dite? Allora, beh, abbiamo sentito Berlusconi e le vecchiette, vogliamo sentire invece Beppe Grillo. Beppe Grillo ieri al comizio a Milano dice: siamo come, facciamo il programma di chi? Sentite. Ce la copiate, vergoglio! Vergoglio, dovresti essere qui con me, Dario Fo! Perché abbiamo lo stesso programma! Nessuno deve rimanere indietro! Il programma del Papa, eh? Caro Vincino, hanno il programma del Papa. È arrivato proprio, totale. Ma io, guarda, ti dico una cosa. Io ora sono molto tranquillo, perché... Sì. Prima pensavo vado a votare, perché no, poi ho pensato, dico, ma ho visto gli ultimi sondaggi, ma non c'è nessuno, proprio tutti sotto, proprio, ma proprio un disastro, guarda, non è che sono tutti un disastro, per cui tranquilli, proprio non c'è problema, può anche non andare a votare. Noi avevamo detto venerdì Vincino svelerà, perché ti abbiamo detto lunedì, allora, sappiamo che poi deciderai di andare a votare, e allora. Fossi in Sicilia già avrei le idee più chiare, ci sono tre o quattro che quasi potrei anche votare. No? Ecco, qua a Roma, guarda, non è... Ma che ti frega a Roma? Ma mandi degli europarlamentari, devi votare. Ma io qua a Roma decido quelli dell'Italia centrale, no? E non te ne frega niente. Quelli dell'Italia centrale sono uno peggio dell'altro. Vabbè, non vai a votare, quindi non va niente. La settimana. Ma poi, come dire, non c'è pericolo di niente. Tutte le stanze che ci hanno messo, tutta fuffa. Vabbè, la settimana non è servita a portare consiglio. No, ha calmato tutto. Tu, Silvia, vai a votare? Ma certo, diglielo. Ma certo, ma poi per le elezioni europee ho fatto alle elementari, quanti disegni ci facevano fare? C'era ancora il MEC quando c'era il mercato comune europeo. Fare i disegni dei formaggi dell'Europa. Ma come si fa a non votare? Diglielo a Vincino, guarda, è un disilluso, cioè, guarda, Vincino, guarda, per metterti... Io c'era la cieca alle mie, la comunità economica... Ho capito, e tu non... il primo disegno pure io per l'Europa, no, l'ho fatto. E tu non vai a votare. Intanto... Non è che su 10 europee, come dire, 6 ci sono andato e 4 no. Vabbè, comunque, allora ti giro... certo, ti giro questo messaggio, dopo che abbiamo parlato di Vincino, vedi la gente come si ha, Vincino. Non avevo dubbi, sei un discepolo di quel porco di Andreotti. Eccola. No, ci è rimasto malissimo, Vincino. È un messaggio rimasto di quel bambino del film La mafia non uccide di Domenica Andreottiano, che era meraviglioso. Sì, no? Mi sono identificato in quel bambino là. No, per cui, come dire, sono rimasto così. Sei rimasto un po' basito da questo insulto che ti è arrivato. Vabbè, e niente, che dobbiamo fare? Ma la gente non capisce la satira, è un paese in cui la satira non è apprezzata. Questo è il dato di fatto. 24 mattino. Buongiorno Milan. Domenica, quando si andrà a votare, mi ricorderò di tutti questi partiti ha appoggiato la riforma Fornero. Cavoli se mi ricorderò. Ma quel signore che sta a Palazzo Chigi, perché continua a prendere in giro la gente? La prossima dichiarazione dei redditi la faremo col telefonino. Ma tanto comincia a fare ASI, IMU, con tutti i righetti, i righetti, i codici tributi, i codici del qua. Ma perché lui ha sbattuto in faccia sta roba? E vediamo un po' se è capace pure a compilarlo. Per la signora dei Mattarelli, uno lo tenga pure lei, non si sa mai, potrebbe servire. Gli altri due potrebbe darli alla moglie di Scajola. Saprebbe farne un buon uso. Alle prossime elezioni votate Antonio La Trippa. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a votar come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Io spero, dopo il fallimento che saranno le elezioni europee, che la Merkel con la Wehrmacht scenda giù in Italia e a forza di manganellate metta un po' le cose a posto. Altro che diritti acquisiti, altro che garantismo. Renzi, Berlusca e Grillo stanno a far festival dello strillo, perché dice che ce vanno a illuminà. Ma ce pensi, stanchi di tanta luce, volemo restare all'oscuro. Andate a piander, tanto per la par condicio. Arrivederci. Vabbè, vicino, oggi non è, bene. Oggi non erano male, la fine era buona. Era un po' poeti, santi, navigatori. No, certo, la storia di Scaiola, quella è terribile, guarda. Cioè? La storia di Scaiola andava appresa a quella andava appresa a quell'altra andava. Cioè, la polizia che andava appresa a tutte e sei, è vero. Cioè, l'unica che riusciva a seguire tutto era la polizia, era una cosa, guarda. Però io vorrei sottoporvi a questa notizia che oggi mi ha sconvolto sui giornali. Allora, l'Europa, cara Silvia Brasca, ha risolto il problema. Il PIL va male? Il PIL è un po' in difficoltà? Il PIL arranca? In Italia siamo un po'... E dall'Europa cosa hanno pensato bene? Ha detto, è molto semplice. Cambiamo i parametri nel PIL, adesso calcoliamo anche prostituzione, spaccio di droga. E quindi in Italia. È da 20 anni che glielo dicono tutti. Ho capito, ma cioè, in Italia, per esempio, c'è subito un aumento del PIL del 15%, no? Ma io dico, ma Silvia, aiutami tu. No, ma ormai lo si sapeva, cioè tutto il nero, c'erano i dati che non corrispondevano a quello che si vede, si diceva, certo, questo è il nero, quando si andava nelle marine, o si va ancora nelle marine e vedi tutte quelle barche, uno dice, ma come, fai due conti? Sì, ma ho capito, ma tutti appesi a dire, almeno 0,1% di PIL, allora non c'è la crescita, ma che problema c'è? Calcola dentro un bello spaccio di stupefacenti e il PIL sale al più 5% e c'è la crescita, ma dai, ma se non è una presa in giro questa? È la verità, è l'economia vera, quella là scusami, in America stampano 10 volte i dollari che dicono di stampare, è così, no? Sono come i capelli di Grillo, tutto derivati. Cose. Comunque arriva un altro messaggio, attenzione, Alessandro, dia Vincino che stasera va alla Piazza San Giovanni col busto di Andreotti, sicuramente lo vende, sicuramente lo vende. Pesa 90 kg, è un disastro. Vabbè, organizzati. Secondo me oggi a Piazza San Giovanni c'è Beppe Grillo, credo, no? Che chiude lì. Sicuro, lo vendi lì, sicuro lo vendi. Sicuro. Abito pure là vicino, non è che... Ah, ecco, appunto. Avete capito, Grillini, cercatelo in zona, Vincino. Ecco, lui che ama di più Beppe Grillo. No, vado a vendere i manifesti, che io ho fatto 400 manifesti con Grillo. Là. Vabbè. Comunque, insomma, il PIL, questa cosa del PIL. L'altra è questa che mi ha incuriosito. C'è la stretta di mano a sua insaputa. Dobbiamo aggiornare la lista, cara Silvia. Sai chi ha fatto una stretta di mano a sua insaputa? Il candidato. No, il vice ministro dell'interno, Filippo Bubbico. Sì. È a metà di Sorrento. Ah, esatto. È nato a metà di Sorrento e c'è uno che a metà di Sorrento vive e che sta aiutando il candidato per le elezioni comunali. Che è Vincino? Quello è l'omologo di Grillo. No? Allora, Bubbico è arrivato, vice ministro dell'interno, ha stretto la mano a Schettino, poi gli hanno detto, ma lei ha stretto la mano, ma non l'ho riconosciuto, chiedo scusa alle vittime, alle vittime della Concordia. Ma succede, si va in giro in campagna elettorale, si stringono mani. No? Non l'hai mai visto in televisione, da nessuna parte, Schettino. No, però, un attimo, ma se incontrate Schettino e uno come fa a non dargli la mano? Cioè, guarda che è anche imbarazzante. No, come si fa? Forse dai. È più imbarazzante chiedere l'aiuto di Schettino per, come dire, sostenere un candidato. Però voglio dire, c'è la par condicio e quindi Vincino si può benissimo chiedere l'aiuto di Schettino. Ma nel paese sono stati tutti solidali, come dire, là sono paesi che sono famiglie allargate. Gli unici che erano fuori Schettino nel paese di meta, tutti, al 93%, tutti. Assolutamente. Vabbè. Dai, allora siamo ormai in conclusione. È il momento dei voti. Allora, intanto i voti. Allora, Vincino, voto a Grillo di questa campagna elettorale. due e un quarto, guarda. veramente. Vabbè, sì. Vabbè, cioè, sì. Tu, Silvia, baraccala. Silvia, tu che dici? Voto a Grillo. Sette, brava. Hai capito il principio della par condicio. Brava. Poi, voto a Renzi, Vincino. Renzi, diciamo che si è dato un po' da fare, è andato... come è uno che fatica molto. Allora io gli ho dato 8 come fatica e 1,5 come risultato, ecco, quindi poi media, non ci arriva fatica, ma non ci arriva. La media fa 4,5. Vabbè. Silvia? Dal 7 all'8. Dal 7 all'8, è più generosa la professoressa Brasca, eh. Vincino, poi voto a Renzi, no, voto a Berlusconi. Berlusconi, diciamo che, come dire, è iniziato con grande difficoltà, no? Aveva molti handicap, praticamente era meno 40, da lui è dovuto partire, sì, da meno 40, per cui è arrivato a 3 pure lui, insomma. A 3. Silvia Brasca? Non si può, come quando all'università ci sono i pensionati, vanno in pensione, poi vanno all'università. No, dai. No, non è così. L'ho visto molto invecchiato, molto invecchiato. E ha perso molto smalto. Un 5, posso dire un 5. Ma non gli si può dare il voto. Niente, cioè, senza voto. Davvero, non pervenuto. Nel salutarvi e ringraziarvi, Nino da Gioiosa Mare ti scrive, Vincino, che scambia con te il calco di Mussolini in rame con il busto di Andreotti. Se ti interessa, ti Assolutamente no. Caro Nino, no. Mussolini, no. Alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Che leggerai i giornali? Leggerai i giornali. Oggi leggerò pochi giornali. Cari ascoltatori, oggi la maggior parte dei giornali, per uno sciopero dei poligrafici, non è in edicola, non c'è il Sole 24 Ore, non c'è il Corriere della Sera, non c'è Repubblica, non c'è La Stampa, non c'è il Messaggero, insomma la maggior parte dei giornali non c'è. Alcuni invece ce li ho qui davanti, sono regolarmente in edicola: Il Giornale, Libero, Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto, Il Secolo XIX, Il Quotidiano Nazionale, Italia Oggi, Il Foglio e La Padania, e questa è la mazzetta che mi è arrivata di giornali. Va bene, quindi sarà una rassegna stampa comunque ricca di spunti, anche se da giornali più selezionati rispetto a quelli tradizionali. Ma oggi parleremo anche con, alle 8:15, Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, Massimo Fini, scrittore editorialista del Fatto Quotidiano e Il Gazzettino, dunque due giornali che trovate in edicola e che con noi parleranno della chiusura della campagna elettorale, l'ultimo giorno, venerdì, perché domenica si vota e da domani siamo in silenzio elettorale prima del voto. Silenzio. Andiamo a sfogliare allora i giornali che trovate in edicola. Qualcuno c'è? In questo venerdì 23 maggio i titoli de Il Giornale: Berlusconi dice governo a rischio, c'è anche un'intervista a Renzi che dice la mia verità dal cavaliere alla giustizia barbara. Libero, per far quadrare i conti arruolano mafiosi e lucciole, e da qui partiremo tra poco per spiegare di che si tratta. Il Fatto Quotidiano, la banda banchieri, la vicenda dell'arresto del numero 1 di Carige, nonché numero 2 dell'ABI, e anche Il Secolo XIX, così Berneschi truffò la Carige. Ovviamente per Il Secolo XIX, essendo di Genova, una notizia da prima pagina, da prime pagine del Giornale. Il Manifesto invece, il voto utile, questo è il titolo, e c'è un'esultanza di Alexis Tsipras questi giorni in Italia. Per Il Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Europa già al voto, mentre Italia Oggi titola Merkel tifa per Beppe Grillo. Se il PD prendesse troppi voti, il PSE diventerebbe maggioranza al Parlamento Europeo, dove sinora erano egemoni i popolari al servizio della cancelliera tedesca. Ma come detto, questo titolo di apertura di Libero, che è una notizia poi sviluppata su tutti i giornali, è abbastanza incredibile. È vero che già in America e comunque già in varie parti del mondo, e anche si dice in Europa, si calcola una quota del PIL relativa a che cosa? al nero, per esempio, a quell'economia sommersa, si fanno delle stime che finiscono in qualche modo nel PIL, ma quello che ha partorito l'Europa davvero lascia basiti molti. Nel PIL anche droga e prostituzione. Titola per esempio così Il Giorno a pagina 3. Così spuntano 150 miliardi in più. E allora scrive Il Giorno, se i conti non tornano o ci si dispera o si aggiustano i numeri. Il PIL non cresce e in guai a parecchi paesi europei, in primis l'Italia. E ricordate, nel primo trimestre di quest'anno abbiamo una stima, abbiamo meno 0,1, quindi il PIL è decresciuto. Bene. Cambiamo il sistema di calcolo del PIL in modo che risulti più corposo, magari facendosi dare una mano da qualche signorina compiacente o da un po' di malavitosi. Eccolo qui il colpo di genio, in verità non partorito nella vecchia Europa ma negli Stati Uniti. I burocrati di Bruxelles, con un'operazione di copia e incolla, hanno stabilito che da quest'anno tutti i 28 paesi dell'Unione Europea, dunque anche l'Italia, nel calcolo dei conti pubblici dovranno inserire una stima del valore monetario delle attività illegali. Tra queste la prostituzione, il contrabbando di sigarette, lo spaccio di stupefacenti, il contrabbando di alcolici, tutte attività che in Italia hanno una tradizione consolidata e contribuirebbero ad aumentare il PIL di almeno 150 miliardi l'anno, oltre il 10% del totale secondo le ultime analisi dell'OCSE. Roba da far impallidire i cinesi, che nel 2015 contano di crescere del 7,7%, e noi, se ci mettiamo dentro puttane, droga, alcolici, contrabbando eccetera, potremmo arrivare a crescere secondo il PIL del 10,3%. Ora, se a voi pare una cosa normale, dite voi. Il Fatto Quotidiano con Stefano Feltri a pagina 6 ha già rinominato il PIL in prodotto interno lercio. Droga e prostitute, il PIL cresce. Il calcolo del prodotto interno lordo italiano cambia, secondo le nuove regole europee avranno un peso maggiore droga, prostituzione, contrabbando di sigarette, alcol, il PIL diventa un po' un prodotto interno lurido o lercio, secondo la felice sintesi dello statistico Franco Mostacci. La spiegazione è questa: Eurostat, agenzia statistica europea, sta cercando di rendere più uniforme il calcolo del PIL nei paesi dell'Unione, dato cruciale perché contribuisce al calcolo dei parametri di finanza pubblica. E allora eccole qua, le nuove regole sostituiscono le precedenti del 95, le novità sono parecchie. Spese per ricerca e sviluppo verranno classificate come investimenti, l'acquisto di armamenti da parte dello Stato diventa un investimento invece che un consumo intermedio. E la parte che colpisce è quella sull'economia illegale, tanto che Libero titola proprio in prima pagina: per far quadrare i conti arruolano mafiosi e lucciole. Mario Giordano ne scrive in prima pagina: l'Europa finalmente cresce, ma è una crescita drogata. Non trovando altro modo per ridare slancio all'economia, i cervelloni di Bruxelles hanno avuto un colpo di genio. Da quest'anno saranno inserite nel calcolo del PIL dell'Unione anche attività illegali come prostituzione, contrabbando e droga. Non si tratta di una barzelletta né di un'esagerazione di quei soldi populisti e demagoghi degli euroscettici, ma che c'è un comunicato ufficiale scritto nel solito sanscrito di Bruxelles che spiega che l'Eurostat ha fornito linee guida ben definite. Le attività illegali di cui tutti i paesi inseriranno una stima nei conti e quindi nel PIL sono traffico di stupefacenti, servizi della prostituzione, contrabbando di sigarette e alcol. Ci salveremo grazie a prostitute e drogati. Questa è la sintesi brutale di Libero. Vabbè, a parte questa vicenda del PIL, il Fatto Quotidiano pubblica con Edoardo Di Biase e Carlo Tecce che cosa? Delle notizie che sicuramente, se state guidando, ci faranno stare, vi faranno stare con le mani ben strette sul volante, ben strette dalla rabbia. Tenetele strette sempre, perché così non date magari dei pugni, non vi distraete. E se avete il solito caffè bollente, appoggiatelo. La lista della spesa, questo è il titolo dell'articolo alla Camera, i bilanci pubblicati dei gruppi parlamentari Partito Democratico, 5 Stelle e Scelta Civica. Che fanno con i soldi del gruppo? Sono tanti, il bilancio è di 25,4 milioni di euro che vengono dati ai gruppi parlamentari. Ecco qui per esempio il Partito Democratico alla voce servizi 91.654 euro per incontri e seminari su temi di attualità politica. Volete l'elenco? Convegno Europa e Democrazia, documentario sul lavoro femminile 19.000 euro, Italia America Latina 10.000 euro, Ambiente al Centro 8.000 euro, ma anche la pubblicazione in 1.500 copie di un libro, un piccolo vocabolario per comprendere il linguaggio parlamentare, 122 pagine dalla A alla Z, alla B c'è la lettera B per berlusconismo. Quelli del Fatto hanno letto questo libricino, eh? È un neologismo della lingua italiana che interviene solitamente nel linguaggio del giornalismo e della sociologia politica. Alla lettera C vi insegnano cos'è la consuetudine, questo con libricini stampati dai gruppi parlamentari del PD a spese nostre, eh? Alla F francotiratore, che cos'è un francotiratore? Circa 257.000 euro investiti per la comunicazione e così via e così via. Scelta Civica invece doveva gestire 1,89 milioni di euro, dal bilancio avanzano 580.000 euro, anche gli ex montiani come al PD noleggiano le berline, le auto, nel 2013 hanno speso 22.114 euro, hanno organizzato meno convegni e hanno speso 28.000 euro. Inquietante la voce spese funebri. Come spese funebri? Hanno speso 1.070 euro, ma sono soltanto necrologi. Il necrologio del gruppo di Scelta Civica, 1.070 euro a spese del gruppo e a spese quindi dei contribuenti. Circa 5.000 euro invece di spese per la rappresentanza. Il Movimento 5 Stelle scrive invece nella relazione che per l'anno prossimo l'organico potrebbe aumentare. E forse conviene, perché il gruppo Montecitorio ha dovuto pagare delle penali alla Camera perché ha assunto pochi dipendenti, 16 tra giornalisti e impiegati, ma invece doveva prendere più del doppio. La Camera dunque ha trattenuto 548.000 euro sul fondo e altri 180.000 torneranno al mittente. I 5 Stelle hanno ricevuto 3,7 milioni di euro, ne hanno spesi circa 2, ne restano 1.753.000. Il 76% delle spese è servito a costi del personale, il 9% collaborazione e consulenze, 11.412 per la comunicazione, 5.000 euro per acquisti informatici. Comunque trovate tutti i dettagli sul Fatto a pagina 10, la lista della spesa. A proposito del Fatto Quotidiano, vabbè, c'è anche oggi un'intervista, ma la vedremo tra poco, a Licio Gelli, il venerabile, torna a parlare il venerabile. Comunque, prima della pubblicità vi lascio con questa, la storia del bravo disoccupato, che su Libero viene descritta da Alessandro Gonzato a pagina 17, l'onestà che fa notizia. Un disoccupato, 45 anni, Matteo Pallotta, residente in provincia di Rovigo, ha comprato su eBay per 1.250 euro da una coetanea di Rieti un Comò. È arrivato il Comò, ha frugato nel Comò e ha trovato un controcassetto con dentro un bot del valore di 50 milioni di lire risalente al 1997, pagabile al portatore, e 30.000 euro in contanti. E che ha fatto? Ha restituito tutto alla persona dalla quale aveva comprato il Comò, dicendo: chiunque si sarebbe comportato come me. È stato giusto così. Bah, bah. Chiunque. Adesso non siamo troppo ottimisti. La carta costa e io pago. Certo, la carta costa, c'è il premio anche oggi, anche oggi, sebbene, cari ascoltatori, come ho detto, i giornali in edicola sono limitati nel numero, c'è stato uno sciopero dei poligrafici, la gran parte dei giornali non è uscita, ma sono usciti Libero, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano, Il Secolo XIX, Il Giorno, Il Manifesto, Il Foglio, Italia Oggi, qualcosa dunque c'è. Allora, intanto, ultimo giorno di campagna elettorale, le ultime interviste, Renzi per esempio si concede al Giornale e al Libero, vedi, gli unici due giornali importanti che sono usciti ai quali non aveva concesso un'intervista. E dunque al giornale Grillo, il cavaliere e la giustizia barbara, ecco la mia verità, Laura Cesaretti, intervista del Presidente del Consiglio a pagina 5, intanto qualche ammissione di responsabilità sulla questione del Parlamento. Effettivamente in 80 giorni ho fatto 9 decreti legge, 9 fiducie, è innegabile che ci sia un problema nella maggioranza, sarebbe scorrettezza intellettuale negarlo, il problema c'è, l'assetto istituzionale non aiuta, sto aspettando che si riformino finalmente i regolamenti parlamentari. Tra l'altro dice sulle settimane, e ricordo che oggi si chiude la 55esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province, come io ricordo tenendo il conteggio, anche se al Presidente del Consiglio non piace molto, dice Renzi, credo che su questo Berlusconi sulle riforme abbia sbagliato a dar retta a cattivi consiglieri, avrebbe giovato anche a lui intestarsi le riforme, ma le porteremo comunque a casa, inutile, eccolo qui Renzi, inutile strapparsi i capelli per qualche settimana in più dopo 20 anni di ammuina totale. Su Beppe Grillo dice Renzi, il suo era il primo partito alle scorse elezioni, se gli italiani voteranno con cuore e testa e non con la pancia, lunedì non lo sarà più. E Grillo, a Torino sta coi Notav, a Roma coi Carabinieri, a Firenze con Berlinguer e in periferia con Casa Pound. Insomma, è il primo leader il cui programma dipende più dal tom-tom che dalle idee. Così Matteo Renzi dice di Beppe Grillo in un'intervista al giornale. Parla anche a Libero, a pagina 2 e 3, Matteo Renzi. Anche Renzi fa il suo cucù, qui il centro è il rapporti con la Germania, con Angela Merkel tratto alla pari. Mi rimproverano di essere prono alla Merkel, dice Renzi al Libero. Io invece rispondo con la Merck, il colosso che ha chiesto di investire nel sud Italia creando posti di lavoro di qualità. L'operazione della Merck è nata proprio al cancellierato tedesco, alla cena tra la delegazione tedesca e la nostra aperta agli imprenditori. Siamo leali, responsabili, ma con la Germania il rapporto è alla pari, dice Matteo Renzi, che però scrive Belpietro nell'articolo che comunque fa da corredo all'intervista e da spalla. I sondaggi clandestini allarmano Matteo perché può fermarsi sotto al 30%. Il premier dice non sarebbe una sconfitta, ma in realtà la fronda interna del PD, dice Belpietro, chiederebbe la sua testa. Perciò l'ex sindaco gioca d'anticipo e torna a minacciare le dimissioni. A proposito di questa soglia del 30%, c'è un giallo. Io oggi ho twittato questo, secondo il Fatto Quotidiano, almeno si legge nell'articolo di Wanda Marra, pagina 4 del Fatto, c'è un virgoletta di Matteo Renzi che dice così: se prendo meno del 30% me ne vado. Mi ha scritto Tommaso Labate sul profilo Twitter a dire guarda che forse si sono persi un non, cioè se prendo meno del 30% comunque non me ne vado, altrimenti sarebbe la notizia, come dire, più importante. Ora il giallo è questo, cari amici del Fatto Quotidiano, che dobbiamo fare? Certo avremo ospite Massimo Fini che scrive e collabora col Fatto Quotidiano, ma non è che lui sa se Wanda Marra ha scritto nell'articolo perdendosi un non. Insomma, che ha detto Renzi, che se ne va se prende meno del 30% o che non se ne va? Io sapevo appunto che diceva non me ne vado, comunque, cioè non è un sondaggio sul governo, quella che è la votazione in Europa. In ogni caso c'è anche un'intervista a una persona che certo di campagna elettorale non è che se ne intende, però chissà perché il Fatto Quotidiano lo va a intervistare proprio alla vigilia con Marco Dolcetta, la vigilia delle elezioni, parla dalla sua veneranda età di 96 anni il venerabile Licio Gelli, intervistato appunto da Marco Dolcetta, e sentitene a per tutti. Matteo Renzi è un bambinone, visto il suo comportamento pieno di parole molto ridotto nei fatti, non è destinato a durare a lungo, comunque non è mai stato né lui né i suoi familiari nella massoneria. E vedo nel governo molte giovani donne che personalmente vedrei molto meglio a occuparsi d'altro. Parola di Licio Gelli, che poi dice quelle di Renzi per la legge elettorale del Senato sono riforme goffe. Poi ancora su ne ha per chi Renzi è un fenomeno parzialmente italiano, mi risulta che tra i suoi mentori politici ci siano persone che vivono a Washington, è circondato però da mezze tacche, gli ex lacchè di Berlusconi. Fini, che ho conosciuto bene quando faceva l'attendente ossequioso di Almirante, e poi Schifani, Alfano, personaggi non certo di livello, e Verdini invece, se penso a Berlusconi, ha sbagliato con le giovani donne ma anche circondandosi di personaggi di bassa levatura. Verdini, un mediocre uomo di finanza, un massone credo, ma non della nostra squadra. Per concludere, che ne pensa del futuro? Chiede il Fatto. Non nascondo che vedo con una certa soddisfazione il popolo soffrire. Ma non mi fraintenda, non sono felice di questa situazione. Sono felice che vengano sempre più a galla le responsabilità della cattiva politica, perché probabilmente solo un tributo di sangue potrà dare una svolta, diciamo pure, rivoluzionaria a questa povera Italia. Parola di Licio Gelli, intervistato dal Fatto Quotidiano, e prima si discuteva perché mai e perché diavolo mai andare a scomodare un signore di 96 anni che certo una parte di storia d'Italia l'ha fatta, comunque l'Italia vista dal venerabile Licio Gelli. A proposito di venerabili, saluto anche oggi Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Guarda che qui parte veramente la querela. Il venerabile Mauro Meazza. Parte veramente la querela. E poi non mi distrarre che sto smontando tutti i comodi di casa a vedere se ci sono dentro dei bot per caso. Secondo me, posso dire che secondo me queste notizie mi puzzano un po' di bufala pazzesca. Che tutti quelli che comprano il comò su eBay trovano 100.000 euro e li restituiscono. Cioè, comunque facciamo la svelta perché ho ancora due o tre scrivanie. Voglio i testimoni, voglio vedere il comò con il bot dentro. Allora Mauro, oggi il Sole 24 Ore non è in edicola, ma noi ti chiamiamo non comunque. Non è in edicola, ma siamo comunque sul pezzo, come si dice. Allora, perché il sito ovviamente www.ilsole24ore.com, dove tra l'altro se uno scorre trova anche una bella fotografia di Alessandro Milan. Pensavo di Licio Gelli. E si può anche tra l'altro direttamente passare così alla parte di Radio 24 e persino ascoltare in diretta la rassegna stampa di Alessandro Milan. Siamo molto molto democratici, come sito del Sole 24. Cani e porci, insomma, sul Sole 24. Naturalmente parliamo delle misure varate ieri dal Consiglio dei Ministri, questo Art Bonus, con questa detrazione, 65% di detrazione per privati ma anche per imprese, per donazioni alla cultura, e poi ci sono misure per Pompei e Caserta, posti bisognosi di cure. E poi c'è anche un bonus del turismo che è stato varato ieri, che è interessante anche per interventi di riqualificazione edilizia ed energetica e anche di digitalizzazione delle strutture. Poi naturalmente alla conclusione dei programmi di attualità di Radio 24 uno potrebbe anche ascoltare tra un programma e l'altro, che so, il video di Folli che invece fa il punto sulle europee. Naturalmente c'è uno speciale dedicato alle elezioni europee. Vabbè, insomma, non vi fanno, vi tocca lavorare comunque. No, noi siamo sempre H24 E poi naturalmente, caro Alessandro, ci sono tutte le parti riservate agli abbonati. Tu sai che il Sole 24 Ore digitale è anche molta proposta per gli abbonati. Sempre dal sito www.sole24.com si raggiungono i vari quotidiani verticali, come si chiamano in gergo, cioè il quotidiano del diritto, il quotidiano del fisco e la Finanza 24, il quotidiano della Casa del Territorio. Non so, volevo dirti, se vuoi pagare il bonifico della ristrutturazione edilizia ricorrendo a un finanziamento, guarda che puoi farlo, trovi la notizia sul quotidiano del fisco. Se paga la finanziaria ti riconoscono comunque il premio, lo sconto IRPEF. Sei più sereno ottimo, adesso? Ottimo, stai sereno. Se invece sei avvocato, sappi che sul quotidiano del diritto ci trovi anche una decisione di Cassazione che ha detto che se la figlia è autosufficiente e basta con l'assegno di mantenimento, il papà può anche non versare più. Vabbè, una ultimissima segnalazione ti faccio da questi quotidiani verticali, dove li trovate? Scorrendo sul sito del Sole 24 Ore trovate i links. Senti come sono adeguato alle cose moderne. Che figo il mezzo. Dillo forte. Allora, trovate anche il quotidiano della Casa del Territorio, dove ho scoperto, guardandoci stamattina, che arrivano 350 milioni per manutenere i ponti e le strade. È stato firmato il decreto dal ministro e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno anche i bandi. Perché ti parlo di ponti e di strade a questo punto? Chissà perché? Te? Ma non lo so. Ma perché devo dire la mia parola finale? Dilla. Augurando a tutti un sereno fine settimana, naturalmente a tutti traffico. Impareggiabile Milan, sono Attarus, Goldrake, principe del pianeta Flit. Ma quando sono sulla Terra sento sempre la sua rassegna stampa. Grande, grande Romano Malaspina, il doppiatore di Actarus, Goldrake. Un grande abbraccio ovviamente. Continuiamo la lettura dei giornali, i giornali che oggi trovate in edicola, come ha detto, falcidiati da uno sciopero la maggior parte, ma ci sono alcuni quotidiani invece che escono, tipo il Fatto Quotidiano, che torna sulla vicenda dell'archivio di Scajola e l'articolo di Marco Lillo a pagina 8 è questo: ecco l'archivio Scajola, le carte che coinvolgono Berlusconi. Scrive il Fatto: Silvio Berlusconi ieri era ospite a Omnibus e sull'archivio Scajola dice: non potevo immaginare nulla di questo, ma in particolare in realtà c'è una cartellina azzurra recante la dicitura CSIMML, contenendo un carteggio che contiene un carteggio dove CS sta per Claudio Scajola, IM Imperia, ML Mario Ledda. È la storia, un faldone, 150 pagine della storia di Mario Ledda, condannato per violenza carnale e altri reati, che fuggì latitante in Francia. Secondo il Fatto Quotidiano, era stato aiutato anche, aveva dei contatti con l'ex ministro Scajola e di questo era stato informato anche Silvio Berlusconi. Ecco, il Fatto Quotidiano dice le carte che coinvolgono Berlusconi. A proposito però della vicenda Scajola e soprattutto la vicenda della mancata scorta al giuslavorista Marco Biagi, che ovviamente torna sulle prime pagine dei giornali, c'è da dire che la vedova Biagi in tanti anni ha rilasciato pochissime dichiarazioni. Giacomo Amadori di Libero riesce a sentirla per qualche frase. Marina Orlandi, vedova di Marco Biagi, in 12 anni ha rilasciato pochissime dichiarazioni, inizia proprio così l'articolo di Amadori, ma dentro di sé ha sopportato in silenzio lo scaricabarile delle istituzioni. Allora ecco qui qualche frase. Queste cose sono state dette dappertutto, evidentemente fa comodo. E la frase di Marina Orlandi si interrompe. Forse vorrebbe dire fa comodo farle uscire ora, ma coerente col suo stile non dice. La sua non è un'intervista, ma poche frasi di chiarimento per il cronista. Aggiunge ancora la vedova Biagi: la cosa gravissima è che i servizi avevano denunciato il rischio per Marco mesi prima della sua morte. Se queste cose al Ministero del Lavoro le hanno apprese leggendo Panorama, è agghiacciante. La signora fa riferimento a un articolo uscito il 15 marzo, un articolo intitolato I prossimi obiettivi dei terroristi, nelle quali si era denunciato il rischio per il ministro del welfare Maroni e per i suoi stretti collaboratori. Comunque aggiunge ancora: hanno fatto un'inchiesta sulla scorta, alla fine il giudice ha ammesso che c'erano state mancanze, che c'era qualcosa contro prefetto e questore, ma non tali da poterli incriminare. Tutti quanti qui a Bologna e là a Roma, a destra e a sinistra, tutti si sono adoperati per insabbiare tutto. Rimugina ancora così la vedova Biagi. E tanto che il titolo di questa, che non è un'intervista ma qualche frase appunto scambiata con il libro, è La vedova Biagi: Scajola, non solo lui. Vabbè, c'è anche tutta la vicenda dell'inchiesta che ha terremotato la Carige, la Cassa di Risparmio di Genova, con soprattutto il suo numero uno da 25 anni, Berneschi, tanto che questa è la prima pagina e tante pagine interne del secolo XIX, raccontano Marco Grasso e Matteo Indice per questa inchiesta. Il suo linguaggio è un libro aperto per gli investigatori, anche quando cerca di essere criptico. Io devo venire a vedere quelle ragazze su. Ma non si parla di donne in quei dialoghi, ma di soldi. Così parlava al telefono Berneschi. Non si ammicca all'amore, ma al potere. Del resto al telefono non c'è un giovane innamorato, ma Giovanni Berneschi, l'impiegato che si fece direttore di banca, il padre padrone che ha gestito Banca Carige per 25 anni. Da qualche mese non è più nei giochi, detronizzato dopo una relazione di Banca Italia che accusa la sua gestione di gravissime irregolarità. Però è tuttora vicepresidente dell'Associazione Bancaria d'Italia. Anche per questo i finanzieri non si fanno ingannare quando parla di nazionalizzare. Le accuse nei suoi confronti sono gravissime. Quello di aver fatto parte al capo di una cupola di un comitato d'affari per drenare soldi dalla banca. Arrestata e fermata anche la nuora e altri quattro. I giudici dicono un vero e proprio comitato d'affari. Ovviamente c'è tutto sul Secolo XIX, i dettagli, 5 pagine. Oh, che è successo invece a Busto Arsizio? Una figura penosa al tribunale di Busto Arsizio fatta dalle istituzioni italiane. Due giorni fa, come ha raccontato la Prealpina e oggi viene ripreso dal giornale da Maria Teresa Conti a pagina 11. Due giorni fa, processo Finmeccanica. Riusciamo a far venire a testimoniare l'ex ministro britannico della difesa Jeff Hunt. Ministro di Blair dal 99 al 2005. Arriva, testimonia e c'è il traduttore che non capisce l'inglese e quindi tutto rinviato di una settimana. Eccolo qui, l'interprete non capisce, il ministro di Blair non può testimoniare, una figuraccia internazionale, scrive il giornale, non parlava un complicato dialetto arabo o l'hindi. Parlava l'inglese, era il ministro britannico alla difesa e non è riuscito però a portare in aula al tribunale di Busto Arsizio un interprete capace di fare una traduzione simultanea indispensabile per il verbale stenografico. A un certo punto l'interprete spaesato ha detto «sto traducendo a senso» e tra l'imbarazzo generale la testimonianza è stata rinviata di una settimana col testimone appunto Jeff Hoon che con grande humor britannico ha commentato «mi scuso di non essere in grado di parlare italiano». Ma porca miseria, ma perché dobbiamo fare queste figuracce? Vabbè, penosa esibizione dell'interprete, così titola il giornale. Va bene, siamo al momento della carta costa, anche oggi con i giornali meno giornali in edicola, ma c'è il vincitore ed è Libero, un'intera pagina di Daniela Mastro Mattei dal titolo emblematico. Se l'eroe è il gatto, salva il padroncino dall'aggressione di un cane e diventa un idolo. Io lo dico sempre al mio gatto, Zen, aiutami, Zen, salvami. Ma niente, mi guarda e mi fa, miau. Amici di Libero, sappiate che la carta costa. 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, eccoci cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, intanto vi do subito il numero verde per intervenire, 800 24 00 24. Parliamo di ultimo giorno della campagna elettorale e insomma ci siamo, è inutile adesso tornare a dire che è stata una campagna elettorale senza grandi contributi e tanti strilli, tanto tutte le campagne elettorali sono uguali, sono così e anche questa non è sfuggita alla regola. Ogni volta si dice anche ma questa è la peggior campagna elettorale che si sia mai vista, ma ogni volta va aggiornata questa frase e quindi ogni volta siamo di fronte alla peggiore. Una frase fatta anche questa, dunque. Certo, le questioni che si dovranno capire da lunedì e che mi sembrano sul tavolo a urne chiuse è queste elezioni, comunque vadano a finire, avranno dei riflessi sulla tenuta del governo? E poi quante saranno forti le spinte anti-europeiste? Questo è un altro elemento proprio più prettamente europeo che domenica si capirà dalle urne. Allora, tanto ne vogliamo parlare con Il direttore del giornale Alessandro Sallusti, buongiorno, eccoci direttore. Buongiorno. Uno dei giornali che oggi è in edicola, perché lo ricordo, ci sono tantissimi quotidiani che sono stati fermati dallo sciopero dei poligrafici, mentre il giornale come Libero, il Secolo XIX, il Fatto, il Manifesto, il Giorno, questi, il Foglio, sono regolarmente in edicola. Saluto anche Massimo Fini, scrittore editorialista del Fatto Quotidiano, per l'appunto del Gazzettino. Ben ritrovato Massimo, eccoci qua. Buongiorno, ciao. Allora, c'è da dire questo, oggi Alessandro Sallusti sul giornale intervistate Renzi, un po' tanto miele per Berlusconi e invece tante critiche a Beppe Grillo, che tu dici nell'editoriale è come Vanna Marchi, una Vanna Marchi della politica ma anche pericolosa. È davvero lo spauracchio anche questa volta le elezioni, Beppe Grillo? Beh sì, a mio avviso sì. Detto che, come dire, tutto è legittimo, perché non è che si possono dare le patenti di candidabilità a qualcuno, uno si candida e punto. Ma detto questo, Vanna Marchi, Beppe Grillo è un venditore di fumo, tra l'altro uno dei peggiori venditori, nel senso che la sua vita, la sua storia, anche i suoi primi passi in politica sono assolutamente all'inverso di quello che pretende e promette di fare, e quindi sono persone che ritengo davvero pericolose. Addirittura pericolose, ma pericolose per cosa? Ma pericolose prima di tutto perché sfasciano senza costruire, secondo perché illudono la gente, terzo perché se mettessero in pratica quello che dicono, sarebbe, cosa che di cui dubito ovviamente, sarebbe comunque la fine della democrazia. Allora non capisco perché dare un voto a uno che promette che il giorno dopo ci sono i tribunali del popolo che giudicheranno giornalisti, imprenditori, politici. Sì, ha detto una cosa non violenta. No, perché tra l'altro ti faccio sentire... non violenta, anche Mao Zedong diceva cose non violente. Poi il passaggio dalla teoria non violenta all'applicazione della violenza è brevissimo. Eppure ieri nel suo comizio a Milano, Beppe Grillo ha dato una visione, visto che viene sempre accusato appunto di essere violento anche nei toni, una visione, come dire, se vogliamo, proprio all'opposto. Sentite cosa ha detto. Le nostre parole sono quelle che ci ha copiato Bergoglio. Ce l'ha copiato Bergoglio. Bergoglio dovresti essere qui con me, Dario Fo, perché abbiamo lo stesso programma. Nessuno deve rimanere indietro. Il reddito di cittadinanza. Insomma, come Papa Bergoglio, Sallusti, capito? Non altro che violenza, secondo me. Ma sì, ma è già violento dire io sono come Papa Bergoglio, mi ha copiato, dirlo poi con quel tono, è veramente Vanna Marchi, sono le cose che diceva, avrebbe potuto dire tranquillamente Vanna Marchi per vendere una pentola, questa è la pentola di Papa Bergoglio, cioè tra l'altro poi, come dire, fa il moralista, fa il puro e tutto quanto. Noi abbiamo dimostrato in questi giorni che nella sua attività professionale è stato un grande evasore fiscale e non siamo stati smentiti nemmeno da lui. Insomma è uno che ha campato. Attenzione, perché su questo Grillo ha già detto che partono le querele. A quando partiranno ne prenderemo atto, voglio dire, non ci spaventa certo quello. È uno che ha campato di soldi pubblici, ha fatto i milioni spolpando la RAI con le sue ospitate e le sue presentazioni dei vari Sanremo. Insomma, lui ha fatto esattamente l'opposto di quello che dice che è giusto fare. Vabbè, no? Insomma, mi sembra di capire che il conflitto elettorale è soprattutto contro Beppe Grillo, che in questo momento viene visto, non so, e vorrei chiedere a questo anche a Massimo Fini, se è visto come l'uomo e il suo movimento più pericoloso per il sistema, qualcuno l'ha definito così. Massimo Fini, che lettura c'è? E soprattutto aggiungo, c'è un rischio di tenuta del governo dopo queste elezioni lunedì? Intanto trovo curioso che Sallusti paragoni Grillo a Vanna Marchi, perché Sallusti dirige un giornale d'area, si dice pubblicamente d'area berlusconiana, in realtà di Berlusconi, che è stato per 20 anni un venditore, e la differenza è questa, che Berlusconi ha avuto perlomeno 10 anni di governo per venderle queste pentole, ma non è riuscito in nulla. Grillo almeno aspettiamolo alla prova. E poi, tra l'altro, il Movimento 5 Stelle in realtà istituzionalizza e quindi inoculizza una rabbia, un disagio che c'è nel paese e che potrebbe sì diventare violento. Quindi non riesco proprio a capirla, o meglio, la capisco col fatto che si ha una grande paura, come a suo tempo della Lega, di questo movimento che è sicuramente antisistema, o meglio, è antisistema dei partiti. Sono stati i partiti a portarci non negli ultimi 20 anni, ma negli ultimi 30 anni in questa situazione. Questo è il discorso di fondo di Grillo, in quanto i toni ne abbiamo sentiti, eviazioni ne abbiamo sentiti ben di peggio, e poi anche qui è curioso sempre che Sallusti ricordi delle eventuali storie penali di Grillo, quando Berlusconi le storie penali ne ha avute moltissime, e una definitiva, per cui c'è una differenza, ma qui è la dimostrazione che è stata una campagna elettorale in cui si è parlato pochissimo di contenuti europei e ci si è rinfacciati sempre, no? Sempre le solite cose, fini. Ma la questione anche perché è più che mai, ma non è una campagna elettorale basata sui personaggi, no? Certo. Berlusconi, che è stato un grande personaggio nel bene o nel male. Vabbè, chiaro, c'è la campagna elettorale di Renzi contro Grillo e Berlusconi, capire se può tornare anche con questa condanna da scontare ai servizi sociali, se può comunque essere ancora della partita in maniera cioè questo è il dato di fatto, no? Queste tre persone. Sì. Però no, la questione della tenuta del governo come la mettiamo? Perché Renzi secondo me dipende naturalmente, cioè se 5 Stelle dovesse eventualmente vincere le elezioni, non è affatto detto, come dice Grillo, che il governo debba cadere, perché le regole sono altre. Direi che l'illusione di 5 Stelle è di poter, insomma, ci sono delle regole, e siccome 5 Stelle è un movimento rivoluzionario, sì, ma pacifico, non vedo come possa schiodare la cittadella istituzionale che si è chiusa a riccio, appunto lì. Grillo contro il sistema non scardinerà il sistema, mi sembra di poter dire. Non lo scardinerà. E perché? Cioè, voglio dire, ma che vuol dire? Nel senso, sembra ancora con queste immagini, l'apri scatole, aprire. Sì, no, ma dico, no, non riuscirà a scardinarlo. L'immagine è quella, è nel suo concetto, è che tutta la classe dirigente italiana, partiti, ma non solo partiti, ma intellettuali e giornalisti compresi, è responsabile dello sfascio del paese. Io non riesco a vedere da dargli torto, francamente. Ripeto, io poi non voto perché non. Sì, fini, si sa. Da quanto non voti? Da 20 anni, 30 anni? Ma 30 anni tranne un voto dato nell'80, non nel 90 la Lega. Credo. Nel 90 la Lega, l'ultimo voto. Sì. L'ultimo voto e niente. L'unico. E niente ti ha mai più convinto ad andare a votare, niente e no, nessuno. No, perché non credo ho scritto un libro, Sudditi, manifesto contro la democrazia, non credo alla democrazia rappresentativa, credo che sia una truffa, credo che sia un sistema di oligarchie politiche, economiche e criminali intrecciate fra loro, o, nella migliore delle ipotesi, di aristocrazie mascherate, che non hanno però nemmeno gli obblighi dell'aristocrazia storica. Questo è un discorso che porta avanti da molto tempo. Lo so. Allora, Sallusti, qui la questione è a dire come si fa a rinfacciare a Beppe Grillo alcune cose che Massimo Fini ha detto potrebbero essere respinte e moltiplicate per 5 per Silvio Berlusconi. Ma non credo che la questione sia prettamente giudiziaria. Voglio dire, Fini, che ha studiato molto più di me, e ne ha scritto anche dei libri su questi argomenti, sa benissimo che tutte le dittature sono nate facendo da, come dice lui, da catalizzatore pacifico alla rabbia e alla violenza che era nell'aria, che era nei paesi, E dopodiché queste, una volta che le hanno convogliate, poi hanno iniziato a bruciare i libri, i libri sgraditi nelle piazze, e poi hanno iniziato a sospendere i diritti civili, e poi, cioè tutte le rivoluzioni nascono in modo pacifico e poi diventano dittature. E quindi il fatto che Grillo faccia da catalizzatore, sì, alla rabbia non è un buon auspicio. Voglio dire, la rabbia andrebbero date delle risposte alla rabbia, certo, e quindi non mi tranquillizza questo fatto. Ma io non mi fido, lo cito oggi, cito Montanelli nel pezzo che ho scritto per il giornale, perché noi conosciamo tanti mascalzoncelli che però conosciamo tanti mascalzoncelli che non fanno i moralisti, ma non conosciamo un moralista che non sia un mascalzoncello. Cosa voleva dire Montanelli? Non mi fido di chi predica una cosa e poi si comporta in modo opposto, di nascosto. Grillo appartiene esattamente a questa categoria. Io non ho mai sentito Silvio Berlusconi dire processeremo in piazza gli evasori fiscali, non l'ho mai sentito dire, non lo pensa, al massimo gli evasori fiscali, come è successo a lui, vanno processati nei tribunali. Quindi, è la presa per il culo di Grillo, che ci vuole convincere che lui è un puro, che lui è non è quella cosa. Diffidare dei puri, insomma, diffidare. Non è quella cosa lì, e poi dire io però verrebbe da dire, ribaltando, a meglio dire non processeremo un evasore fiscale perché so che sono un evasore fiscale anch'io, che non è neanche questa una bella pubblicità, insomma, da farsi. No, ma questo è assolutamente fuori dubbio, io non è che sono per non processare gli evasori fiscali, a parte che, voglio dire, Silvio Berlusconi è il primo contribuente fiscale italiano, quindi non mi risulta che Grillo sia il primo contribuente italiano, appunto, né che abbia pagato tutte le tasse che doveva pagare. Ma poi Fini dice un'altra cosa, dice voglio vederla alla prova, e l'abbiamo visto alla prova, laddove l'unico posto significativo dove è stato messo alla prova, beh, insomma, lui ha detto ai cittadini di Parma, eleggete me che io bloccherò l'inceneritore. Ecco, l'inceneritore è stato messo in funzione e funziona alla grande, per fortuna che funziona alla grande. Con Pizzarotti, allora, tra l'altro, sindaco, c'è anche qualche problema. No, però facciamo così, riprendiamo tra un attimo, dopo la pubblicità, che ho sforato anche un paio di minuti, recuperiamo il discorso con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Massimo Fini del Fatto Quotidiano, del Gazzettino, e anche le vostre telefonate, 800 24 00 24, cari ascoltatori, dite la vostra su questa campagna elettorale che oggi si chiude e cosa vi aspettate da questo voto. 24 mattino. Ragazzi, è normale, perché questa campagna elettorale, avete visto che cosa è accaduto? La peste rossa, la lupara bianca, alla fine è chiaro che chiamano la Croce Verde, perché è il loro modo di concepire la politica, l'insulto, il linguaggio della violenza. Ma noi siamo un'altra cosa. E insomma, anche Matteo Renzi la pone così, vabbè, ma sono frasi da comizio, Massimo Fini, frasi da comizio. Certo, contenuti se ne sono visti pochissimi, ben pochi, no? I contenuti europei, che cosa hai colto? Ma di contenuti ho colto pochissimo, come tutti, e questa è una battaglia campale decisiva, nulla è mai decisivo in questo paese. Neanche le sentenze definitive, ma appunto, diciamo, è una battaglia fra il PD e 5 Stelle. Appunto, perché chi la traduce così vede bene, cioè, nel senso, un Berlusconi in affanno, nel senso, e per forza, adesso, al di là di ogni giudizio che si voglia dare sull'uomo e sul politico, è in chiara debolezza. Poi bisogna anche contare che il tempo conta, conta per tutti e conta anche per lui. È un uomo che, se anche dovesse entrare in politica in modo istituzionale, avrebbe più di 80 anni, insomma, è una cosa improponibile. Quindi sono questi due che si scontrano, anche se Grillo non è un giovanetto, ma non si propone come leader istituzionale, e lì si gioca la partita. In quanto a Renzi, Renzi è l'espressione, fa politica da, 20, da quando ha 22 anni, è l'espressione di quella classe politica che Grillo contesta, e per la verità non solo Grillo, io voglio dire per il mio piccolo è dagli anni 80, sì. Faccio un discorso contro la partecipazione, allora insieme sono radicali. Allora sentiamo, siamo con Massimo Fini, come avete capito, e con Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Sentiamo qualche ascoltatore. Piero da Trento, buongiorno Piero. Buongiorno. Dica. Ma molto semplicemente mi piacerebbe provare a far passare un concetto che satira politica è diverso da fare politica, o perlomeno la politica P maiuscola che intendo io e che risale ai classici antichi, che bisognerebbe un attimino rispolverare. Dopodiché comincio la trasmissione, perché per una volta nella vita, cosa che ritenevo impossibile, mi fa essere d'accordo col dottor Sallusti. Vabbè, insomma, è d'accordo per una volta nella vita, no? Però, sì, vorrei sottolinearlo, perché per me era una cosa impensabile. Capito Sallusti? Sallusti, se si candida, avrà un elettore. Piero da... No, una volta nella vita poteva essere impensabile, invece oggi è d'accordo. Va bene, grazie Piero. Andrei a Salerno da Alessandro, buongiorno. Buongiorno dottor Milan, un saluto a lei e ai suoi ospiti. No, volevo intervenire andando un po' controcorrente, perché secondo me i contenuti in questa campagna elettorale ci sono stati e li ho visti, nel senso che se ci fermiamo alla televisione e ai media tradizionali sicuramente non ci sono stati contenuti, però nelle piazze, per esempio nella mia città, ci sono stati parlamentari del Movimento 5 Stelle, 15 in una sera nella mia città, che hanno spiegato a migliaia di persone qual era il programma, parlando solo ed esclusivamente di contenuti. Va bene, però capisce Alessandro, tra la piazza di Salerno e la piazza virtuale di Porta a Porta, secondo lei dov'è che è più importante che i contenuti vengano diffusi per arrivare al maggior numero di persone, no? Sì, però mi risulta che in tutte le piazze d'Italia ci sono stati parlamentari. Ma certo, ho capito, ma lei lo sa meglio di me che la gente vota in base a quello, soprattutto l'80%, 70% degli elettori che vanno a votare si basano sulla TV, si basano su quello che sono le sensazioni. Sono pochi gli appassionati, pochi percentualmente gli appassionati che vanno a incontrare i candidati, o no? Sì, però ho visto migliaia di persone in molte piazze, certo, anche sulla rete ci sono stati contenuti, quindi diciamo... Quindi lei dice i contenuti per chi li voleva andare, chi era appassionato c'erano... Sì. Vabbè. Mi sembra una visione parziale ridurre sempre e comunque tutto alla TV. No, ma è chiaro che è parziale, però è una fetta di popolazione più numerosa statisticamente parlando, ma non è che lo scopro. Però diciamo i contenuti li ho visti. Grazie Alessandro, lei li ha visti. Allora... Sallusti, vorrei capire una cosa. Oggi leggo appunto in questa intervista di Renzi al giornale appunto carezze, dolcezze, miele per Berlusconi, definito da Renzi il combattente, sono un garantista, l'accordo per le riforme reggerà. Ecco, non è che, come dice Fini, poi comunque vada a finire, la cosa importante per Renzi è mantenere l'accordo con Berlusconi per arginare l'eventuale ondata grillina? No, io credo che in questo momento la scelta non sia tanto tra partiti, ma sia tra regimi. C'è un regime democratico, per quanto con tutti i limiti del regime democratico, che noi non abbiamo mai negato, anzi abbiamo più volte messo al centro dell'attenzione le corruzioni, le inefficienze, gli sprechi. La democrazia purtroppo è anche questa cosa, e invece un regime totalitario, pericoloso, una setta come quella di Grillo, questo è lo spartiacque. Allora è ovvio che Renzi e Berlusconi si trovano alleati all'interno di un regime democratico. E starei anche attento a celebrare i funerali del centrodestra prima del dovuto, nel senso che anche i sondaggi che noi conosciamo fino all'ultimo conosciuto, che era possibile conoscere, in realtà non disegnano un centrodestra sparito, crollato, fuori dai giochi, perché il centrodestra è sempre stato un contenitore, a differenza della sinistra che aveva un partito egemone, prima il PDS, poi il PD e oggi il centrodestra, l'ammontare dei voti dei partiti del centrodestra più o meno equivale a quelli, anzi, cioè mettere Forza Italia in nuovo centrodestra, poi chi la devi Lega? Devi sommare, cosa che l'Europa è impossibile, perché gli europei non prevedono coalizioni, e devi sommare il Forza Italia al nuovo centrodestra, a Fratelli d'Italia, e aggiungere l'alleato storico alla Lega. Sì. Anche i peggiori sondaggi che abbiamo visto fino a 15 giorni fa dicono che questo blocco del paese rappresenta ancora il 32-33% del paese. Sì. Quindi non aria di funerale. Occhio, è spacchettato. È spacchettato, sì. Ma anche perché a vedere che tipo di alleanza potrà mai fare, che ne so, futuribile la Lega con Berlusconi, insomma, non se ne sono mandati a dire, insomma, però diciamo come area di centrodestra le vedi... Cioè, non è vero che in Italia l'area del centrodestra è in crisi. È in crisi il modello, perché una volta esisteva un Berlusconi che teneva tutti attorno e tutti legati, adesso questo modello non c'è. Però interessante l'analisi, da qui ripartirei dopo il traffico, insomma, che è un po' quello che dice anche Massimo Fini, su questo immagino sarete d'accordo. Anche Sallusti dice, almeno questa è la visione di Sallusti, c'è un'alternativa, le due alternative sono due regimi, uno democratico, quello attuale, e uno che prevederebbe con Grillo al potere. Allora, vorrei sentire Cesira da Crema, ci chiama, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Senta, io ho sentito prima un intervento del suo ospite che diceva che normalmente i movimenti partono tutti per... bene, tranquilli, sì, per le cose fatte bene, e poi possono anche esplodere in cose. Però io vorrei sapere, allora, oggi, nella vita in cui vivo oggi, secondo voi è democrazia questa? Miliardi, stramiliardi rubati, mica rubati, gente impunita, quelli che ci governano, la gente che non ha niente a che fare con noi. Sì. Ogni giorno che uno apre un quotidiano, che apre una cosa, sono tutti inquisiti, dovrebbero essere tutti... Questa è democrazia, secondo quel signore lì. E poi effettivamente Sallusti ha detto già, c'è l'alternativa tra il regime attuale e il regime di Grillo. Quindi evidentemente non è democrazia. Volevo dire a voi giornalisti, il 90% dei giornalisti sono tutti dirottati o da una parte o dall'altra. Questi ragazzi del Movimento 5 Stelle, che sono tutte persone giovani, tolga in mezzo Grillo, che è una persona di spettacolo, che ha 50 anni che fa spettacolo, lo dice continuamente, sono un uomo di spettacolo. Sì. Ma quei ragazzi che ci sono nel movimento sono ragazzi preparatissimi, sono ragazzi veramente in gamba, che sanno l'inglese, l'italiano, il francese, il cinese. Ci dobbiamo tenere persone di 90 anni col pannolone. Vabbè, l'italiano, diciamo, l'italiano almeno spero che lo sappiano anche gli attuali politici, non tutti ovviamente, non benissimo. Comunque Cesira, la ringrazio, il 90% dei giornalisti sono dirottati, non lo so, io quando sento parlare per categorie veramente, cioè, adesso me la prendo col 90% dei fabbri o degli idraulici o degli, io non so, degli addetti alle pompe funebri, non lo so, le categorie. Comunque Massimo Fini, c'è un po' di argomenti su cui discutere, evidentemente. Vogliamo partire dall'ultima ascoltatrice? No, vorrei partire da un dato che non è stato richiamato qui. C'è un'astensione che si profila essere vastissima. Sì. E quindi? 50%. E quella va calcolata, perché voglio dire, se a questo aggiungiamo i voti che prenderà Grillo, sia il 25% sia il 30%, questo vuol dire che c'è quasi due terzi del paese che non crede più a questa classe politica e forse non crede nemmeno più alla democrazia rappresentativa così come è stata agita perlomeno in Italia negli ultimi anni. Però questo si è sempre detto e succede a tutte le elezioni, è anche sempre maggiore questa percentuale. Che possiamo fare però? Chi non vota? Appunto, ma questo la non partecipazione è un'espressione di volontà molto precisa. Ma certo, ma ci saranno analisi sociologiche sul perché la gente è disillusa. Arriviamo al limite, poniamo che ci fosse solo il 10% delle persone che vanno a votare, si porrebbe un problema politico. Sì, però non succederà questo. Questo lo vedremo. In quanto non capisco perché si accusi Grillo a priori di totalitarismo, il fascismo non è sia cominciato con cose fiori, è cominciato con le squadracce che menavano che menavano la gente, qui non c'è nulla di tutto questo. La stessa accusa fu fatta alla Lega, non c'è mai stato un atto, uno solo, di questo movimento ormai irrilevante, ma allora importante, che abbia fatto violenza, anzi che ormai fu fatta violenza dallo Stato con l'intervento della Lega nella sede di un partito, come qualcuno ricorderà. Quindi è un pregiudizio davvero questo che Grillo sia un uomo totalitario. Da dove lo si ricava? Da che cosa? Non riesco veramente a capire. Allora, sentirei Michele da Milano. Buongiorno Michele. Sì, buongiorno Milan. Volevo soltanto dire due cose. La prima, che impersonare Grillo come Movimento 5 Stelle, secondo me è sbagliato. Forse bisognerebbe prendere tutti i 10 e oltre milioni di elettori che l'hanno votato e che andranno probabilmente a riconfermare il voto. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, questa campagna elettorale è nient'altro che il risultato della crescita di questo movimento e della paura del sistema che questo movimento possa distruggerlo. Sono qua. Grazie. Sallusti, ci sono moltissimi messaggi, non li ho letti, ma ne sono arrivati tantissimi anche a chi vi dice: Milan cambia lavoro, tra poco andrete a zappare. Ma chi? Ma magari! Ma sarei più felice magari andare a zappare, caro ascoltatore Gianni, ma chi? C'è un lavoro onestissimo ed è un lavoro magari che dà più soddisfazione andare a zappare la terra piuttosto che fare il giornalista. Ma a parte questo, Sallusti, molti arrabbiati perché dicono: ma come vi permettete di definire una setta il Movimento 5 Stelle, che è quello che ha detto Berlusconi e quello che dici anche tu oggi, come mai una setta? Voglio dire, è un movimento votato da 10 milioni di persone. Ma è una setta, sicuramente una setta, nel senso che tra l'altro è anche una cosa, è un'oligarchia, cioè ci sono due signori, Grillo e Casaleggio, che all'interno di un computer decidono senza nessuna trasparenza, perché un computer è molto meno trasparente di un congresso di partito, decidono i candidati, chi vince, chi perde, chi deve fare il Presidente della Repubblica, chi no, e avviene tutto dentro un file, non è che avviene, un file è la rete, no? Quella che dicono è la democrazia, ma la rete, della rete, ma chi mi certifica? Almeno nei vecchi congressi della Democrazia Cristiana c'erano dei signori che tra imbrogli e impicci mettevano la faccia, alzavano la mano e votavano e si contavano. Vabbè, ma è proprio quello che Grillo vuole distruggere, che dice è finito. I sondaggi di Grillo non hanno nessuna certificazione di ente terzo, è lui che stabilisce che Sallusti ha preso 430 preferenze, che quindi può fare il deputato. Nessuno garantisce che le cose siano andate così, è una cosa chiusa dentro un file di computer. Dopodiché che questa sia una setta, una dittatura, è perché io quando uno scrive a te, a me, domani andate a zappare, sì. Io vorrei vivere in un paese dove ognuno può esprimere le sue opinioni e nessuno gli dice domani vai a zappare, e nessuno lo manda a zappare. Ma ci sono di peggio, i messaggi non li ho letti, ci sono anche di peggio, ma che dobbiamo fare? Chi è partita? Sì. Ma che dobbiamo fare? Cioè, c'è anche di peggio, nel senso, come chi evito da giorni che mi arrivano i leccaculo, gli zerbino, l'inginocchiato. Poi l'inginocchiato, io rispondo a tutti questi, quelli che mi dicono sei inginocchiato, dico allora. Tutti quelli che mi accusano di essere di sinistra, quelli che mi accusano di essere di destra e quelli che mi accusano di essere grillino, vi chiamate. Vi scambio i numeri di telefono, fate una bella riunione, decidete per chi sto, che faccio fatica a stare pure con me stesso, e poi me lo dite, va bene? Così io da quel giorno saprò, in base alla decisione vostra, con chi diavolo sto. Va bene, ma ringrazio Alessandro Sallusti e Massimo Fini. Ci dobbiamo fermare qui per la campagna elettorale, anche per 24 mattino. Adesso inizia il silenzio elettorale. E poi da lunedì, no, in realtà oggi è l'ultimo giorno di campagna, e poi da lunedì ovviamente parleremo delle urne aperte. Grazie a tutti, Elisabetta Fuscone, Alessandro Marco Tulli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. A lunedì.